Dichiarazione di Berlusconi che ha detto che è un problema degli enti locali perché non sanno gestire la situazione, lui pensava. Ognuno la pensa. No, e lei è un ente ognuno locale, la pensa, sono rispondente. Ognuno la pensa e la vede come vuole. Io ho sempre riferito nelle sedi opportune ed anche al signor Berlusconi che se ci danno gli impianti, tutti gli impianti dove portare i nostri rifiuti, ci prendiamo noi sindaci tutte le responsabilità, ma fin quando il servizio mi viene reso da un certo consorzio Napoli Caserta che non funziona affatto, io non mi posso prendere la responsabilità di quel consorzio che non funziona. Nel momento in cui danno a me la responsabilità e mi dicono dove devo portare l'umido, dove devo portare la plastica, dove devo portare l'alluminio, dove devo portare il resto della differenza, mi prendo tutte le responsabilità. Questa è la risposta che posso dare a Berlusconi, al padre Berlusconi e a Giuseppe. Non ce n'è già abbastanza di siti in Campania e farne ancora altri, non sarebbe più logico bonificare quelli che ci sono, cominciare realmente la raccolta differenziata, condividete, ma come non posso che condividete? Certo, mi cade in chiuscute l'Italia. Ma io faccio il sindaco, non è che faccio un mestiere di voi, lei probabilmente non conosce i compiti del sindaco, questo che devo rispondere. Abbiamo finito ieri sera a mezzanotte per fare ma loro non conoscono queste cose, loro sono convinti che il nostro compito è di una forza enorme, ma vi posso assicurare che siamo in difficoltà come voi, la pensiamo come voi, vorremmo che le cose andassero così come volete che vadano voi, però deve cambiare. E allora perché non vanno come vogliamo noi, se lo volete pure gli enti locali? Ma chi è che non vuole che si faccia una differenziata, che tutto si vada al suo posto, che tutti si impianti si debbano fare, il problema è uno scaricabarismo. Qual è? Cioè, il vero problema e cioè gli impianti, ma chi li deve fare? Noi non li possiamo fare, cioè, ho capito, ma i soldi oggi, parte oggi, ecco, oggi, sono per tanti oggi la provincia, quindi noi siamo qui a protestare insieme a voi perché siccome abbiamo un'autonomia di un anno e mezzo, dopodiché ci daranno gli impianti almeno il presidente di provincia di Caserta, noi tra un anno e mezzo, due anni non dovremmo più scaricare nelle discariche, questo è tutto, ci vuole il tempo materiale per arrivare agli impianti. Se ma quando anni ero su bianco sì, c'è il piano regionale nostro provinciale per quanto riguarda lo trovate sul sito della provincia e in esame basta come cittadini potete fare osservazioni anche al piano. Sono cari. Io partire una gara significa avere i fondi a disposizione, progetti presentati e tutto pronto per essere fatto. Guardate il sito internet della provincia, potete presentare procedure come ci ma lei lo sa che un altro anno e mezzo di tal quale qua che combina. Ma qua non deve venire un altro anno e mezzo di tal quale qua, qua non deve venire. Da quello che sappiamo noi, qua non deve venire tal quale. Allora spiegatecela bene questa cosa, di la settimana, forse un mese, forse dal 2003. Allora c'è. Mi dice il sindaco, e non ho motivo di non credere al sindaco, che c'è un accordo sottoscritto che su questo sito bisogna fare solo la bonifica. Ovviamente ci chiediamo noi, perché state scaricando in questi giorni? Ci è stato risposto da persone che ovviamente, non dico vanno creduto, ma almeno ci dicono le cose come stanno, ci è stato risposto che sono stati costretti solo per questa piazzola e non sono previste altre piazzole di appoggiare questi rifiuti su questa piazzola per riportarli poi via successivamente. Ok, ma dopo dove andranno questi? Facciamo il giorno le 30. Volete parlare che sono stati messi a disposizione 47 milioni e che in questo momento è iniziata la bonifica e stanno facendo i carotaggi per quanto riguarda il sito molto più pericoloso di questo che riguarda le 7 discariche che stanno a un chilometro di qua? Incominciamo a dire che lo Stato qualcosa sta tentando di fare. Dall'altra parte sapete che la Sogesind ha fatto il piano industriale e inizieranno a giorni i carotaggi. Ma lo dice a me con 16 anni di ritardo. Io probabilmente ai tempi delle guerre puniche non c'ero, non mi 16 anni fa. Che fa? Siete nato con i capelli bianchi? No, ma non c'era il sindaco 16 anni fa per fare questo. E poi quando ho fatto il sindaco 20 anni fa ci sono atti alla Procura della Repubblica che stanno oggetto di un processo che inizia lunedì.